Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Erano già le 5 passate e perciò, per arrivare in tempo e non andare con i propri cavalli che tutti conoscevano, Vronsky salì sulla vettura a nolo di Yashvin e ordinò di correre il più possibile. Fermò il cocchiere prima di arrivare al viale e, aperto lo sportello, saltò giù dalla carrozza in corsa e si incamminò per il viale che conduceva alla casa. Nel viale non c'era nessuno, ma voltatosi a guardare a destra, la vide. Il suo viso era coperto da un velo, ma egli abbracciò con uno sguardo gioioso il movimento particolare, proprio a lei sola, dell'andatura, del declinare delle spalle e della posizione della testa, e subito sentì come una corrente elettrica percorrere il proprio corpo. Con nuova forza sentì se stesso, dai movimenti elastici delle gambe al movimento dei polmoni nel respiro, e qualcosa lo solleticò sulle labbra. Raggiuntolo, essa gli strinse con forza la mano. «Non sei arrabbiato perché ti ho fatto venire. Per me era necessario vederti», disse. E la piega seria e severa delle labbra che egli vide sotto il velo cambiò di colpo il suo stato d'animo. «Io arrabbiarmi? Ma come hai fatto a venire? Dove andavi?» «Fa lo stesso», disse lei poggiando il braccio su quello di lui. «Andiamo, ho bisogno di parlarti». Egli capì che era successo qualcosa e che quell'incontro non sarebbe stato lieto. In sua presenza non aveva una volontà propria. Senza conoscere la causa dell'ansia di lei, già sentiva che la medesima ansia involontariamente si comunicava anche a lui. «Ma che cosa c'è? Che cosa c'è?» domandava, stringendole il gomito con il braccio e sforzandosi di leggerle nel viso i pensieri. «Ieri non ti ho detto», cominciò lei con un respiro rapido e pesante, «che, ritornando a casa con Alexei Alexandrovich, gli ho rivelato tutto. Gli ho detto che non posso essere sua moglie, che gli ho detto tutto». Fece qualche passo in silenzio, facendosi coraggio, e ad un tratto si fermò. Lui l'ascoltava, involontariamente chinandosi con tutto il corpo, quasi con questo desiderando alleviarle il peso della situazione. Ma non appena lei ebbe detto questo, egli ad un tratto si raddrizzò e il suo viso assunse un'espressione fiera e severa. «Ah sì, sì, è meglio, mille volte meglio. Capisco com'era penoso», disse. Ma lei non ascoltava le sue parole. Lei leggeva i suoi pensieri nell'espressione del viso. Lei non poteva sapere che l'espressione del suo viso si riferiva al primo pensiero venuto in mente a Vronsky, l'inevitabilità del duello. A lei non era mai passata per la testa l'idea di un duello e perciò interpretò diversamente quell'effimera espressione di severità. Ricevuta la lettera del marito, Anna già sapeva, nel profondo dell'anima, che tutto sarebbe rimasto come prima e che lei non avrebbe avuto la forza di sacrificare la propria posizione, di abbandonare il figlio e di unirsi con l'amante. Il mattino trascorso della principessa Tverskaya l'aveva rafforzata ancor più in questa idea. Tuttavia l'incontro con Vronsky era per lei straordinariamente importante. Sperava che questo incontro avrebbe cambiato la loro situazione e l'avrebbe salvata. Se davanti a quella notizia lui le avesse detto in modo deciso, appassionato, senza un momento di esitazione, «Lascia tutto e fuggi con me», lei avrebbe abbandonato il figlio e sarebbe andata via con lui. Ma quella notizia non produsse in lui quel che essa si aspettava. Lui pareva soltanto offeso da qualcosa. «No, non mi era affatto penoso. È avvenuto da sé», disse con irritazione. «Ed ecco», e tirò fuori dal guanto la lettera del marito. «Capisco, capisco», la interruppe lui dopo aver preso la lettera, cercando di calmarla senza leggerla. «Io desideravo una cosa sola chiedevo. Rompere questa situazione per consacrare la mia vita alla tua felicità». «Perché dici questo?» «Posso forse dubitare di questo, se ne dubitassi», disse lei. «Chi sta venendo qui?» disse ad un tratto Vronsky, indicando due signore che venivano verso di loro. «Può darsi che ci conoscano», e frettolosamente si diresse verso un viottolo laterale, trascinandola con sé. Occupato con il direttore della cancelleria, Alexei Alexandrovich dimenticò completamente che quel giorno era martedì, il giorno da lui fissato per l'arrivo di Anna Arkadievna, e fu meravigliato e spiacevolmente sorpreso quando il domestico venne ad annunciargli l'arrivo di lei. Anna era arrivata a Pietroburgo la mattina presto. In seguito a un suo telegramma le era stata mandata la carrozza e perciò Alexei Alexandrovich doveva sapere del suo arrivo. Ma quando lei arrivò non andò a riceverla. Le dissero che egli non era ancora uscito e stava lavorando con il direttore della cancelleria. Lei fece dire al marito che era arrivata, passò nel proprio studio e cominciò a disfare i bagagli, aspettando che egli venisse da lei. Ma passò un'ora ed egli non venne. Lei uscì in sala da pranzo con il pretesto di dare disposizioni e parlava forte apposta, aspettando che lui venisse lì. Ma egli non uscì, benché lei avesse udito che era venuto sino alla porta dello studio per accompagnare il direttore della cancelleria. Lei sapeva che d'abitudine egli sarebbe andato via presto per recarsi in ufficio e voleva vederlo prima per definire i loro rapporti. Fece un giro per la sala e si diresse da lui con risolutezza. Quando entrò nello studio, egli era seduto davanti a un piccolo tavolo sul quale appoggiava i gomiti e guardava tristemente davanti a sé con l'uniforme d'ufficio indosso, evidentemente pronto ad uscire. Lei lo vide prima che egli vedesse lei e capì che pensava a lei. «Sono molto lieto che siate arrivata», disse sedendosi accanto a lei e palesemente desiderando dir qualcosa incespicò. Varie volte volle incominciare a parlare, ma si fermava. Quantunque, preparandosi a quell'incontro, lei si fosse studiata di disprezzarlo e di accusarlo, non sapeva che cosa dirgli e aveva compassione di lui. E così il silenzio si protrasse abbastanza a lungo. «Seriosa sta bene?» disse egli, e senza aspettare la risposta aggiunse: «Oggi non pranzerò a casa, ora devo uscire». «Io volevo andare a Mosca», disse lei. «No, avete fatto molto, molto bene a venire», disse egli. E di nuovo tacque. Vedendo che lui non riusciva a riprendere il discorso, cominciò lei. «Alexei Alexandrovich», disse scrutandolo e non abbassando gli occhi sotto lo sguardo di lui fisso sulla pettinatura, «io sono una donna colpevole, sono una donna cattiva, ma sono quella che ero prima, quella che vi avevo detto allora, e sono venuta per dirvi che io non posso cambiare niente». «Io non vi ho chiesto questo», disse ad un tratto egli guardandola direttamente negli occhi con decisione e con odio. «Così appunto supponevo». Sotto l'influsso dell'ira era evidentemente di nuovo padrone di tutte le sue facoltà. «Ma come allora vi ho detto e vi ho scritto?» prese a dire con voce tagliente e sottile. «Ripeto adesso che io non sono tenuto a saperlo. Io ignoro questo. Non tutte le mogli sono così brave come voi da affrettarsi a comunicare una così piacevole notizia ai mariti». Egli accentuò in modo particolare la parola piacevole. «Io ignoro questo finché il mondo non lo sa, finché il mio nome non è disonorato. Quindi vi avverto che i nostri rapporti devono essere quali sono sempre stati e che solo nel caso che voi vi compromettiate dovrò prendere provvedimenti per tutelare il mio onore». «Ma i nostri rapporti non possono essere quali sono sempre stati», con voce timida cominciò a dire Anna, guardandolo spaventata. Quando essa aveva visto di nuovo quei gesti tranquilli e aveva udito quella voce acuta, infantile, canzonatoria, la repulsione per lui aveva distrutto in lei la compassione di poco prima. Essa aveva ora soltanto paura, ma voleva a qualunque costo chiarire la propria posizione. «Io non posso essere vostra moglie quando...» fece per cominciare. Egli si mise a ridere d'un riso cattivo e gelido. «Si vede che il genere di vita che avete scelto sia riflesso sulle vostre idee. Io rispetto e disprezzo talmente sia l'uno che l'altro, rispetto il vostro passato e disprezzo il presente, che ero lontano dall'interpretazione che voi avete dato delle mie parole». Anna sospirò e abbassò la testa. «Alexei Alexandrovich, che cosa volete da me? Voglio non incontrare qui quell'uomo e che voi vi comportiate in modo che né il mondo né la servitù possano accusarvi. Mi pare che non sia molto, e in compenso di questo godrete dei diritti di una donna onesta, senza adempierne i doveri. Ecco tutto quello che ho da dirvi. Adesso devo andare via, non pranzo a casa». Si alzò e si diresse verso la porta. Anche Anna si alzò, inchinandosi in silenzio. Egli la fece passare avanti. You look look to me like misty roses. Too soft to touch, but too lovely to leave alone. If I could be like misty roses, I'd love you much. You're too lovely to leave alone. Flowers often cry, but too late to find that their beauty has been lost with their peace of mind. Like love forever, too good to last, but too lovely not to try. If I believe in love forever, I'd forget the past. You're too lovely not to try. Dopo aver sbrigato tutte le faccende, fradicio d'acqua che gli scendeva a rivoletti giù per la giacca di pelle dietro il collo e fin nei gambali, e tuttavia nella più alacre ed eccitata disposizione d'animo, Levin ritornò verso sera a casa. Nonostante la tetraggine della natura circostante, si sentiva particolarmente eccitato. «Bisogna soltanto procedere tenacemente verso lo scopo e otterrò quel che voglio», pensava Levin. «Certo, c'è da lavorare e affaticarsi. Non è una mia faccenda personale, ma è una questione del bene generale. Tutta l'agricoltura, soprattutto la situazione di tutto il popolo, deve completamente cambiare. Invece di povertà, la generale ricchezza, l'agiatezza. Invece dell'ostilità, la concordia e il legame degli interessi. In una parola, una rivoluzione incruenta, ma una rivoluzione grandissima. Dapprima nel piccolo ambito del nostro distretto, poi del governatorato, della Russia, di tutto il mondo. Perché un'idea giusta non può non essere feconda. Sì, questo è uno scopo per il quale vale la pena lavorare. E il fatto che sia io, Kostya Levin, quello stesso che è andato al ballo con la cravatta nera e a cui la Scerbakaya ha detto di no, e che è così pietoso e insignificante anche ai propri occhi, è una cosa che non dimostra nulla. Con simili pensieri, Levin giunse a casa, che era già buio. Dopo le consegne, ossia le disposizioni per i lavori dell'indomani, e dopo aver ricevuto tutti i contadini che avevano da parlargli, Levin andò nello studio e si mise al lavoro. Laska si accucciò sotto il tavolo. Agafia Mikhailovna con la calza si sedette al suo posto. Da qualche tempo scriveva, quando ad un tratto Levin ricordò con insolita vivezza Kitty, il rifiuto di lei e l'ultimo incontro. Si alzò e cominciò a camminare per la stanza. «Non c'è ragione di annoiarsi», gli disse Agafia Mikhailovna. «Su, perché restate a casa? Dovreste andare alle acque termali, già che vi siete preparato. Parto proprio dopodomani, Agafia Mikhailovna, ma bisogna finire il lavoro». «Via, che lavoro è il vostro? Già così vi par d'aver beneficato poco i contadini. E dicono, il vostro signore riceverà per questo una grazia dallo zar. Ed è curioso, perché vi curate tanto dei contadini?» «Non è per loro che mi preoccupo, lo faccio per me». Agafia Mikhailovna conosceva tutti i particolari dei piani economici di Levin. Sovente Levin le esponeva minuziosamente i propri pensieri e non di rado discuteva con lei e non era d'accordo con le sue spiegazioni. Ma adesso essa aveva capito in tutt'altra maniera ciò che lui le aveva detto. «Dico che lo faccio per mio vantaggio. A me conviene se i contadini lavorano meglio», disse egli. «Ma per quanto voi facciate, se uno è pigro si scaricherà sempre il ceppo dalle spalle. Se c'è coscienza, lavorerà, ma se non c'è, niente da fare. Sì, ma lo dite anche voi che Ivan si è messo a badar meglio alle bestie. Io dico una cosa sola, rispose Agafia Mikhailovna, evidentemente non per caso, ma con rigorosa coerenza di pensiero. Voi avete bisogno di prender moglie, ecco cosa. L'accenno di Agafia Mikhailovna, proprio a ciò che lui aveva pensato poco prima, lo addolorò e lo offese. Levin si accigliò e, senza risponderle, si sedette di nuovo al tavolo, ripetendosi tutto quello che aveva pensato dell'importanza del suo lavoro. Soltanto di rado ascoltava nel silenzio il rumore dei ferri di Agafia Mikhailovna e, ricordando ciò che non voleva ricordare, si accigliava di nuovo. Alle 9 si udì un campanellino e il sordo sussulto di una carrozza sul fango. «Ecco che ci arrivano degli ospiti, non ci annoieremo», disse Agafia Mikhailovna, alzandosi e dirigendosi verso la porta. Ma Levin la sorpassò. Il suo lavoro in quel momento era fermo ed egli era lieto dell'interruzione procuratagli dall'ospite, chiunque egli fosse. Arrabbiandosi con se stesso per questi brutti sentimenti, Levin corse in anticamera. Appena vide il fratello da vicino, il suo sentimento di personale delusione scomparve subito e fu sostituito dalla pietà. Per quanto terribile fosse anche prima, il fratello, con la sua magrezza e il suo aspetto malato, ora era dimagrito ancor più, era ancora più esausto. Era uno scheletro ricoperto di pelle. Stava in piedi in anticamera, storcendo il collo lungo e magro e strappandone la sciarpa, e sorrideva in modo stranamente pietoso. Vedendo quel sorriso docile e rassegnato, Levin sentì un convulso prenderlo alla gola. «Ecco, sono venuto da te», disse Nikolai con voce sorda, senza distogliere nemmeno per un istante gli occhi dalla faccia del fratello. Volevo farlo da un pezzo, ma stavo sempre male. Adesso invece mi sono assai ripreso, disse ancora asciugandosi la barba con le lunghe mani magre. Sì, sì, rispose Levin e provò ancora più spavento quando, baciandosi con il fratello, sentì con le labbra l'aridità della carne di lui e vide da vicino i suoi grandi occhi stranamente luccicanti. Sì, me ne starò qui da te un mese o due e poi a Mosca. Sai, Miakov mi ha promesso un posto e così entro in un impiego. Adesso sistemerò la mia vita in tutt'altro modo. Sai, ho allontanato quella donna. Maria Nikolaevna? Come, perché mai? Ah, una donna disgustosa. Mi ha dato un mucchio di dispiaceri. Ma non raccontò quali fossero questi dispiaceri. Non poteva dire che aveva scacciato Maria Nikolaevna perché il tè che faceva era debole e soprattutto perché aveva cura di lui come di un malato. E poi, in genere, adesso io voglio completamente cambiare vita. Anch'io, si intende. Ho fatto delle sciocchezze come tutti del resto. Ma il patrimonio è l'ultima cosa. Non lo rimpiango, purché ci sia la salute. E la salute, grazie a Dio, s'è rimessa. Quei due uomini erano così affini e intimi l'uno con l'altro che il minimo gesto, il tono stesso della voce, diceva per entrambi più di quello che si può dire con le parole. Ed entrambi avevano un solo pensiero: la malattia e la prossimità della morte di Nikolai, che soffocava tutto il resto. Né l'uno né l'altro però osavano parlarne, e perciò qualunque cosa dicessero al di fuori dell'unica cosa che li interessava era tutto menzogna. Mai Levin era stato così contento che la serata fosse finita e che si dovesse andare a dormire. Mai, con nessun estraneo, nessuna visita ufficiale, era stato così innaturale e falso come era stato quel giorno. Il fratello si coricò e, sia che dormisse o no, si agitava sempre come un malato, tossiva e, quando non poteva espettorare, brontolava qualcosa. A volte, per la fatica che faceva a respirare, diceva «Ah, Dio mio!» oppure, quando il catarro lo soffocava, proferiva con stizza «Ah, diavolo!» Levin non dormì per un pezzo ascoltandolo. I pensieri di Levin erano i più diversi, ma la conclusione di tutti i pensieri era una sola: la morte. La morte, l'inevitabile fine di tutto, gli si presentava per la prima volta con una forza ineluttabile. E questa morte, che era lì, in quel fratello amato che gemeva nel sonno e per abitudine invocava indifferentemente ora Dio, ora il diavolo, non era affatto così lontana come gli sembrava prima. Essa era anche in lui stesso. Egli lo sentiva. Se non oggi, domani. Se non domani, fra 30 anni, non era la stessa cosa. E che cosa fosse questa inevitabile morte, non solo egli non lo sapeva, non solo non ci aveva mai pensato, ma neppure sapeva né osava pensarci. Cominciava appena a schiarirglisi il problema di come vivere, che ecco gli si presentava un nuovo insolubile problema: la morte. Ebbene, lui muore, sì, morirà verso la primavera. Ebbene, come aiutarlo? Che cosa posso dirgli? Che cosa ne so io di questo? Avevo persino dimenticato che questa cosa esiste. Thank you.